Un buongiorno a Fabio Abbagnato e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fugico. Buongiorno a tutti. È stato approvato un bando a sostegno di festival e rassegne cinematografiche su tutto il territorio regionale. Qual è lo scopo e l'obiettivo di questo bando appena stanziato? Siamo all'inizio di un nuovo triennio per l'attuazione della legge 20, che è la legge sul cinema, e questo è il quarto bando che la Giunta approva dopo che l'Assemblea legislativa ha approvato il programma triennale. Quindi accanto a tutta l'area della produzione c'è l'intervento della Regione nell'area della promozione. In questo settore un ruolo importantissimo hanno i festival e le rassegne della nostra Regione. Noi veniamo da una lunga tradizione di festival e rassegne che sono il luogo in cui da un lato si promuove la cultura cinematografica e quindi la promozione delle opere cinematografiche, delle opere di animazione, cortometraggi, e dall'altro invece le rassegne che, come dire, sono il luogo in cui si valorizza una tematica specifica. Inoltre i festival sono un luogo di incontro importante per promuovere incontri tra operatori e per permettere un'azione di internazionalizzazione delle opere. E chi può partecipare e come è possibile partecipare a questo bando? Allora, il bando intanto scade il 31 marzo, possono partecipare soggetti pubblici e privati. Il bando prevede tre tipologie di progetti ammissibili: progetti triennali di festival, e lì bisogna avere alcuni requisiti specifici che ovviamente rinvio tutti gli operatori alla lettura dei bandi, però sono requisiti che premiano la continuità del lavoro sul territorio, un volume di spesa che è fissato a 100.000 euro, sopra il quale si può chiedere di partecipare a questa sessione di progetti, e per i progetti triennali che il festival sia alla quarta edizione. Poi c'è una sezione annuale dei festival in cui si sta, diciamo, sotto i 100.000, sono manifestazioni che sono giunti alla terza edizione, ma che non hanno una continuità territoriale oppure non hanno un volume di spesa sufficiente ad entrare in un'altra modalità di rapporto. In questa categoria rientreranno i festival comunque importantissimi della nostra regione, che noi sosteniamo da tempo e che arricchiscono l'offerta culturale nei territori. E poi ci sono le rassegne, che sono invece un arcipelago di iniziative promosse o dai comuni o da altre associazioni e soggetti privati, che normalmente hanno una tematica specifica. Sono in vista altri bandi per il sostegno, diciamo, di altre parti dei progetti culturali, come può essere, ad esempio, non so, teatro. L'assessorato è in piena attività in queste settimane, come spesso succede nei primi mesi dell'anno, sono stati approvati molti bandi. Nella sola area cinematografica questo è il quarto bando. C'è un bando dello sviluppo delle opere cinematografiche che è scaduto domenica 28 febbraio, c'è un bando per la produzione di opere rivolte ad imprese nazionali, che scade il 15 marzo, parallelamente al bando rivolto alle opere prodotte da imprese regionali anch'esse con scadenza 15 marzo. Questo di cui parliamo scade il 31 marzo, sta per uscire il bando della legge 37 della promozione culturale, e siamo anche nelle settimane in cui si lavora al nuovo programma triennale della musica. Perfetto, io la ringrazio Fabio. Buon lavoro a tutti e buona giornata.